E bentornati a tutti i radioascoltatori di Radio Città Fujiko, io sono sempre Marco Segato e oggi qui con me per parlare di ReArt, il nostro progetto Artisti Uniti contro il Riarmo e contro la Guerra a favore della pace, c'è un'altra degli artisti che ha scelto di collaborare con noi per questa bellissima iniziativa, ovvero Isabella Del Faggio, benvenuta. Grazie. Ci hai portato una canzone che si chiama Confini. Sì, esatto. Sembra una domanda semplice, dato il titolo. Di che cosa parla questa canzone? In che modo hai affrontato l'argomento del confine e perché è importante per te? Non è così facile rispondere a questa domanda. Io sono un'artista che dagli albori nasce come artista politica, tra moltissime virgolette. Quindi ho sempre parlato un po' del confine in varie sfaccettature. Questa canzone qui, secondo me, è quella che un po' le riassume tutte. Descrive un confine che non è solo quello fisico, geopolitico, territoriale, ma è un confine un po' più umano. Ha l'obiettivo di porre uno spostamento di visione rispetto a queste cose qui. Mi hai accennato una componente politica sempre molto pregna nella tua carriera musicale, quindi ti chiedo di parlarci un po' di te, del tuo percorso musicale, come è cominciato e anche come hai scelto di mettere sempre queste tematiche molto importanti nelle tue canzoni. Allora, io sono musicista, se così si può dire, da una vita, perché ho iniziato a suonare da veramente molto piccola e a scrivere canzoni un po' più avanti rispetto all'inizio della mia carriera musicale, verso i 18 anni. Io ho una famiglia e degli amici che si sono sempre impegnati nel sociale, quindi sono sempre stata un po' circondata da questo mondo qui ed è stato un po' abbastanza logico finire a parlare di temi relativi a quel mondo lì. Quindi sono partita appunto parlando di migranti, parlando di donne vittime di violenza e temi simili. La musica è sempre stata il mio canale principale per esprimere questo disagio di vita che è un po' rispetto a questi temi. Sì, la musica ha un enorme potere, come tutta l'arte, di coinvolgere le persone, di trasportarle anche tramite l'emotività. E quindi ti domando, come tu hai in mente che qualcuno si senta, che qualcuno reagisca di fronte a questa canzone, di fronte a Confini? Qual è secondo te il messaggio e l'obiettivo di questo pezzo? Non ho aspettative sull'ascolto altrui solitamente. A me fa piacere che le canzoni vengano ascoltate, non solo sentite, quindi la mia speranza è un po' lasciare dei semi di pensiero alternativo negli altri, quindi che questa canzone qui, come le altre, portino ad un ragionamento, ad un cambio di prospettiva, ma anche no, ognuno è libero di ascoltare e sentire come vuole, però questo è un po' quello che mi pongo io come obiettivo. Uscendo dall'ambito della semantica, del messaggio della comunicazione, che cosa ti ha ispirato nella creazione e composizione di questo pezzo anche a livello musicale? Quali sono le influenze, le sonorità? Io vengo dal cantautorato italiano classico, canonico, Sergio Rosso, Fabrizio De André, quindi ha un po' quelle sonorità lì. La chitarra non è propriamente il mio strumento, faccio quello che mi riesce e le melodie di solito arrivano abbastanza semplicemente per quanto mi riguarda. Abbiamo anche tutta la grande tradizione ad accompagnarti in questo viaggio, a ricordarti sempre qual è la via e la fonte di ispirazione. Esatto, sì. Tornando a parlare dei messaggi, degli appelli, della comunicazione che avviene tramite l'arte e tramite la musica, ti faccio l'ultima domanda, ahimè, perché stiamo per giungere al termine, che non è proprio una domanda quanto un'esortazione, ovvero ti chiedo di mandare un messaggio, un appello, quello che più preferisci, a tutti i radioascoltatori che ci stanno sentendo in questo momento. A me piacerebbe che la gente rincominciasse a fare rivoluzione, ma quella pacifica. E quindi auguro a tutti una buona rivoluzione, sia sociale che personale e collettiva. Anche come dicevi prima, rivoluzione anche nel senso di mettere in discussione. La rivoluzione e la protesta nasce soprattutto come questo. Sì, esattamente. Noi di Radio Città Fujiko siamo molto felici di aver partecipato con Confini a quella che può essere considerato il tuo apporto alla rivoluzione. Sì. E di questo noi siamo veramente grati, infatti ti ringrazio tantissimo Isabella, grazie mille per essere stata con noi. Grazie mille a voi. Adesso non abbandonateci perché stiamo per sentirla questa canzone di cui abbiamo tanto parlato e quindi ecco a voi Confini di Isabella Del Faggio. Le vedi, le stelle sono qui per noi a ricordarci che esiste anche un universo lontano che puoi tanto pensare è che le paure alla fine son piccole come le mole, e le puoi toccare e le puoi mangiare. E vedi, gli oceani sono così grandi da perdersi in mare. Dentro alle tempeste, nei giorni di pioggia, non fai che affogare. Ma basta una luce, un porto ad un faro, o qualcuno che vuole non farti morire, non farti annegare. E se fossimo tutti salvagenti in questa terra che ci chiede solo di essere distanti più che puoi, che siamo tutti bastardi e prepotenti, anche voi che ho qui davanti, non vi sentite gli unici a far finta di vedere che il mondo sia migliore di quel che sentite in tele, o almeno ci provate, la paura la mangiate, quella vera non sapete che cos'è. Le vedi, le bombe non sono per noi, ma ci sono le nostre impronte, che questo paese racconta la pace ma nasconde la guerra, quella che temi arrivi anche qui in questa tua terra, che è terra di tutti, non terra per pochi. E se la mia pelle è diversa da te, non sono un nemico, te l'hanno insegnato persino i bambini, puoi chiedergli aiuto e fatti spiegare che i soli confini sono i nostri corpi, la pelle che abbiamo, quindi dammi la mano. E se fossimo tutti salvagenti in questa terra che ci chiede solo di essere distanti più che puoi, che siamo tutti bastardi e prepotenti, anche voi che ho qui davanti, non vi sentite gli unici a far finta di vedere che il mondo sia migliore di quel che sentite in tele, o almeno ci provate, la paura la mangiate, quella vera non sapete che cos'è. Gli unici confini.